dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Una buona giornata a tutti voi, cari ascoltatori. Ebbene sì, dai, vai, ancora qui quest'oggi. Eravamo già belli pronti e caldi per un fantastico dibattito con voi. Un dibattito che era tutto impregnato su strama sì, strama no, strama ciao. Ciao. Ciao. Cioè, ciao nel senso no, che ciao l'ascoltatore o ciao a Stramaccioni? No, era ciao Stramaccioni, era già lì con le valigie in mano. Stava a prendere, sai, poi Stramaccioni è uno giovane, con lo zainetto perché, andava via. Perché stavamo dicendo questo? Perché il Catania stava vincendo un bel 2-0 ed ecco che di colpo così ci siamo distratti un attimo e siamo già di nuovo sul 2-2. Ma non finirà così, non finirà così, no, perché adesso corrono come dei matti, sì, cioè sì, proprio sì, sì. Ma adesso sono, come si dice, sono saltati gli schemi. Volevo dirla io, ce l'avevo già lì in canna. Sì, d'altra parte è anche un po' facile far saltare gli schemi all'interno dell'Inter, cioè voglio dire, bisognerebbe prima averli e poi farli saltare, insomma, in questo caso. Sai, le squadre però sono allungate. Mi dispiace per Schelotto, un po' in ombra oggi, ma che però ha dato grande pregio nell'entrare in campo e a dare il suo contributo, tra l'altro è l'unico che colpisce la palla di testa in attacco, quindi attenzione perché è ancora l'Inter, ancora in attacco, niente di fatto, Palacio. Ma non ci agitiamo, non facciamoci prendere da questo ritmo forsennato che c'ha Catania e che c'ha l'Inter, anche perché tutte le altre partite invece tranquillo. Beh, no, tranquillo neanche tanto. Beh, sì, ma tanto chi, cioè, voglio dire, dov'è che... Cioè... Beh, Fiorentina-Chievo, ad esempio, 1-1. Beh, Fiorentina-Chievo si gioca già il quarto o quinto posto, no? Lì, cioè, esatto. Forse cioè, il Chievo un po' così... Cioè, il Chievo nelle ultime partite ha fatto pochissimi punti, nelle ultime 8 partite è una delle squadre che è messa peggio in classifica con il Palermo e il Parma. Parma che sta perdendo in questo momento a Genova contro la Sampdoria grazie a un gol di Icardi su punizione di Estigarribia, mentre il Chievo è riuscito a pareggiare con Kofi. C'è da dire che il Chievo ha una maglia impresentabile, una caratteristica del Chievo: dopo la maglia a quarti giallo e verdi si è presentato con un pigiamino bianco con righino nero. Fiorentina-Chievo 1-1, l'Udinese sta vincendo a Pescara 1-0 grazie al gol di Di Natale. Catania-Inter l'abbiamo già detto 2-2 e 824-0024, tanto tu devi dire i numeri. No, lo dico anch'io, un po' di numero, 824-0024, se proprio volete dire qualcosa su Stramaccioni, noi lo prendiamo comunque volentieri, casomai, se ci fosse prima o poi. O su Cassano. Ma questo o lascia... su Cassano. Ma perché devi anticipare il no, tema? No, Stramaccioni e Cassano. Lascia stare. Cassano-Stramaccioni. Lascia stare, no, non è il caso di anticiparlo il tema, no? Perché poi diventa poi così, ce la bruciamo. Che è successo? No, se volete fare anche i complimenti alle ragazze del Ok su Prato, noi siamo qui, Cioè, vabbè, hanno battuto 1-0 l'Irlanda, sì. Si sono qualificate alla fase finale della World League. È importante. Nei primi 16 posti dico, l'Irlanda è forte, cioè sì, era sì forte, era il top, forte, sì, forte. Sì, era la testa. Non fare di quello serie. Che sa Luca, cioè l'hai scoperto ieri, scusa. Noi lo seguivamo già dalla settimana scorsa, prima che iniziasse il girone. C'è da dire che eravamo condizionati dal campo. Il campo era azzurro e giocavano le azzurre. Gli irlandesi volevano il campo verde invece. Posso farti una domanda? Sì. Abbiamo finito di dare tutti i dati? Ci mancava Bologna-Cagliari, 2-0. Esatto, Bologna-Cagliari, Taider e Diamanti hanno segnato 2-0 per il Bologna sul Cagliari. Nel frattempo offensivo, vediamo se questo è l'intervento di prima. No, c'è prima il fallo di Berghessio e poi il fallo di Chivu. Ecco, stiamo parlando di falli in aria, non è che ci soffermiamo su falli inutili. C'era o non c'era questo fallo? Boh, ne parliamo con il nostro mister di oggi, che rientra ovviamente anche qui tranquillamente nel mondo del calcio. Renzo Olivieri, dopo un giro così, attenzione perché in questo caso, proprio in questo momento, mentre ci stavamo collegando con Olivieri, ecco che c'è stato il gol della Fiorentina, casualmente. Una carambola vietata ha fatto segnare, non ho ben capito chi. L'Arrondo, eccolo qua. Renzo Olivieri, pronto mister? Sì, pronto, buonasera a tutti. Ecco, anche lei sta guardando, immagino qualche sì, partita. Stavo guardando proprio la Fiorentina. Ah, ecco. Ah, ma proprio concentrato su quella partita? Sì, ho visto anche altro, però stavo guardando questa. Ecco, sì. Lei con che criterio sceglie la partita da seguire?

Ecco. Ma di solito lui è da, quando c'è un presidente che così decide i vari personaggi per i giocatori da prendere, cioè, ma non c'ha nessuno, con chi si consulta? Ma lui aveva una strategia di lungo respiro, figurine Panini io non capivo, non la sapevo, me la spiegò un giorno che andai a dire, mi dica qualcosa anche a me, mi dice guardi gliela spiego, ma insomma siccome lei viene di campagna e pensavo l'avesse capito, ma non l'ha capito. Se io voglio vincere lo scudetto, so che non lo vincerò oggi, mi ci vorrà qualche anno per vincerlo, e quindi devo prendere tutti i giovani che ci sono in giro, perché se non tolgo i giovani alla Juve, e i giovani sono quelli che fra 4-5 anni saranno giocatori affermati, non riuscirò a vincere. È la strada che poi lui ha fatto, ha vinto lo scudetto dopo 4-5 anni. Beh, però giovane non è sinonimo di campione, cioè bisogna anche scegliere i giovani. Noi siamo il nostro campionato. Ma spesso giovani e giovani bravi, poi dopo certo. Arrivò Bialli, arrivò grandi calciatori. Vierkouter. Perché Icardi è un giovane bravo, Icardi. Sì, direi di sì. Venduto, infatti. Subito venduto, cioè, quindi mica sta lì, mica. Ecco, perché adesso poi il problema è che i giovani bravi, un po' tutti giocano su questo piano, cioè vengono comprati immediatamente da squadre forti, proprio per lavorare su questo piano, perché non hanno più soldi anche per investire sui top player, tra virgolette, no? Il Milan sta, per esempio, lavorando, secondo me, molto bene. Il Milan sta costruendo la squadra del futuro, d'altra parte quando una società arriva come lo scorso anno con tanti giocatori che sono arrivati al limite, c'erano tanti che non potevano, obiettivamente avevano dato tantissimo sia per il Milan che per la nazionale, e quando arrivi a questo punto che hai bisogno di un grande ricambio, hai bisogno anche di una grande ricostruzione, ecco. Senta, allora vabbè, Cassano ha già fatto la sua ultima cassanata, secondo lei? A me viene da pensare che ha torto, stiamo parlando di un grande calciatore, però che ne capita troppe di queste cose, quindi voglio dire, una volta con l'allenatore, un'altra volta col presidente, mi riferisco alla Sampdoria, insomma, quella è stata in certe manifestazioni sbaglia, credo che lo sappia anche lui. Quindi. Anche perché col presidente non si parlava, cioè si parlava magari di calcio, ma non era proprio in campo, non c'era la parte agonistica. C'era modo di riflettere. Sì, c'era un po' più tutto tranquillo. Modo e tempo. Ecco, ma la gestione di questi calciatori qui è da qui che nasce poi l'esigenza di avere dei corsi di aggiornamento sulle dinamiche di gruppo, giusto? Sì, ma la gestione è un po' di tutti, bisogna sapere che ci sono grandi campioni, però ci sono anche gli altri giocatori di valore normale, di media normale, che contano anche loro, che anche loro sono importanti nell'economia della squadra, e calciatori che l'allenatore deve considerare, ai quali deve dare importanza, se no... Se l'allenatore si lascia andare solo ai grandi campioni, il gruppo non si salda. Stanno finendo le partite intanto. Ecco, sì, siamo nel recupero ad esempio a Genova, Sampdoria Parma 1-0, Catania sempre 2-2 con l'Inter, Bologna vince 2-0 sul Cagliari, Fiorentina Chievo 2-1. Mister, senta, immagino che ogni allenatore abbia una visione soggettiva, una gestione soggettiva, ma un caso tipo quello di Cassano, cioè un giocatore che affronta l'allenatore anche fisicamente, secondo quello che si sa, lei come lo gestirebbe? A cazzotti. Io credo che la prima gestione credo che debba essere all'interno del gruppo, una questione se deve parlare, o perlomeno io ho sempre fatto così, ne parlavo con tutta la squadra al complesso, se c'erano delle robe che non andavano le dovevamo risolvere tutte insieme, ma questo sa, e veniva da pensare, qualcuno mi diceva riunisci il Soviet, ma non era questa l'idea. No. Era che quando le cose andavano la partecipazione doveva essere di tutti, ma anche quando le cose non andavano e c'erano dei problemi, la responsabilità del far riandare le cose nel modo giusto doveva essere da parte di tutti, era responsabilità di tutti. Finita intanto Fiorentina-Chievo 2-1, ma in questo caso, cioè, quando appunto c'è una situazione come quella, il problema del grande calciatore, di quello famoso, ormai anche attenzione perché c'è Palacio. Il gol di Palacio in questo momento nel finale di rimonta, l'Inter dà una svolta alla stagione al 46esimo, finita la possibilità per l'Inter nel primo tempo di riaprire la speranza di secondo o terzo posto. Sembrava una squadra in balia dell'avversario. Vabbè, ok, vabbè, abbiamo capito. 3-2 per l'Inter, proprio Aurora in questo momento. Stramaccioni sta urlando con tutti, non si sa bene con chi, si sta un po', se la sta un po' prendendo con tutti quanti. Guerina anche, insomma. No. 47esimo, 4 minuti di recupero, quindi ne mancano 2 più altri 30 secondi per il gol al Catania per tentare di pareggiare. Ha abbracciato il leader attuale della squadra, cioè Schelotto, in questo momento, perché è il futuro in questo caso. Però intanto comunque gol Palacio, in questo caso l'Inter. Attenzione, infortuni in carriera. Che è successo? Terzo gol di Bologna. Gira imparabilmente, gol del 3-0, secondo centro in campionato per Pasquato. 3-0 per il Pasquato. Pasquato. Scuola Juve, se non sbaglio, sì, se non sbaglio in questo caso. È il 9, ma deve girare pagina e sperare nella partita. Ecco, cioè abbiamo fatto anche un po' di cronaca, stiamo anche su quello che sta accadendo, anche se abbiamo pochissimo tempo per il momento, per andare poi a chiudere. Diciamolo subito, la partita Juventus-Napoli, vogliamo parlarne velocemente? Sì, è una partita nella quale la Juve è partita forte, 1-0 poteva creare anche di più, poteva produrre anche di più, poi è venuto fuori il Napoli, quindi un tempo ciascuno, direi il pari, un risultato probabilmente giusto. La tecnica era quella di tirare da lontano, poi nel secondo tempo, come tra l'altro ha confessato Mazzarri, cannonazzate i cannoni di Navarone che tirano da lontano, insomma, e una volta gli è andata anche bene. Scudetto? Ma sembra abbastanza chiuso il discorso, Napoli ci proverà fin da ultimo, però 6 punti alla Juve che abbiamo visto a Napoli con quella sicurezza, con quella forza, mi sembra, ma a meno che non succeda al finimondo, mi sembra impossibile, anche se la Juve ha impegni di Coppa Campioni, abbiamo visto che ha pagato non so, la partita a Roma per esempio, però mi sembra improbabile. Vabbè, tenete presente che comunque poi ha giocato con Peluso, sì, beh, no, certo. Tra l'altro, no? Samuai, insomma, ci sono anche Padoin ogni tanto. Anche Padoin giocano ogni tanto in questo caso. Bene, noi la ringraziamo moltissimo. Intanto, mister, è stato un piacere averla con noi. A presto, grazie mille. Renzo Olivieri, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, quindi il mister dei mister, tanto per capirci. Ed è finita anche a Catania. L'Inter ha vinto 3-2 contro il Catania. Diciamolo, vuol far fare il praticantato ancora a tutti quanti gli altri allenatori. Intanto andiamo col GR. Vai, non è solo calcio, sì, lo so, però nel frattempo dobbiamo parlare ancora un po' di calcio per il momento, anche perché sono finite adesso ora le partite, come avete già sentito nel GR, e quindi la giornata di recupero, no, non è la giornata di recupero, la giornata e il recupero dell'Inter sarà notizia e farà parlare il più a lungo possibile, anche perché l'Inter stava perdendo un simpatico 2-0 nel primo tempo, dopodiché si è un po' ripresa con 3 gol di Alvarez, Palacio. Tra l'altro Palacio ha fatto anche l'asse sul primo gol di Alvarez. Ma, per dire, è un Palacio Day. Ma beato chi ce l'ha al fantacalcio. Sì, chi ha creduto lui nel fantacalcio, no? Cioè, secondo te c'è qualcuno che crede in Palacio, no? Fantacalcio sì, no. Ti assicuro, no. C'è gente che crede in Palacio. Perché è un giocatore che non segna, è un giocatore che non fa assist. Sì, quindi. Vabbè, no, ti dico, guarda, ti assicuro che sicuramente qualcuno ha puntato su Palacio, anche perché non c'è più nessun altro lì davanti, e quindi è l'unico che può buttare dentro. Beh, certo, c'era una volta, tanto tempo fa, c'era Cassano, e insomma, diciamo che questi alti e bassi, questo moto ondulatorio da parte dell'Inter può creare anche qualche disagio ai tifosi, oppure c'è ancora abitudine, oppure sono già rassegnati, oppure cos'è che vogliono cambiare? Vogliono cacciare Cassano, vogliono cacciare Stramaccioni, vogliono tenere Stramaccioni. Ragazzi, il prossimo anno ancora Stramaccioni, Non è per dire, no? Io farei la firma, però voglio dire, sono anche un tifoso bianco-nero. certo, tu faresti la firma. Io farei la firma perché sei gobbo e per quello che fai la firma. Allora 800 24 00 24, per parlarne proprio di questo tema, se volete parlarne, e cioè cassano sì, cassano no, stramaccioni sì, stramaccioni no, insomma che Inter è, che Inter sarà, non lo sappiamo. Non vogliamo mica parlare del fatto che la Juventus ha vinto il campionato, sì, ha tenuto aperto ancora questo campionato. No, no, l'ha vinto, dai, no, no, punti. No, l'ha detto anche mister Olivieri prima, ha detto 6 punti sono difficili da recuperare. 800 24 00 24, per arrivare, per telefonare qui direttamente da noi. Poi dopo invece abbiamo anche gli sms al 349 238 6666, 349 238 6666. L'ho detto, ne è già arrivato uno, sì, ne è già arrivato uno sempre su Cassano. Siamo maliziosi, Cassano ha gongolato solo nel primo tempo di Catania Inter, che ne pensate? Non lo so, dicelo tu, che cosa ne pensi? Intanto sentiamo che cosa pensa Palacio. Tantissimo per l'Inter, per te a livello personale, perché hai cambiato faccia alla squadra, ma soprattutto nella corsa al terzo posto, no? Sì, sì, era importantissima questa vittoria, perché aveva vinto il Milan e nosotros dovevamo vincere. Certo. Era una partita complicata e abbiamo portato avanti. Milan che ha vinto benissimo, diciamolo. 3-0 con la Lazio ieri sera. A mani basse proprio. Così male nel primo tempo e così bene nel secondo tempo. La cosa è capitata oggi, ma è capitata anche contro il Milan e non a Firenze, perché fu brutto anche il secondo. Sì, non lo so, perché l'importante è che alla fine la squadra ha giocato bene e abbiamo vinto, che era lo più importante per noi. L'Inter è tornata a vincere in trasferta a 4 mesi esatti dall'ultima volta a Torino. Può essere la scintilla che cambia la stagione nel momento decisivo? Speriamo, dobbiamo continuare così, lavorando con... Implacabile, le domande, sì. Proprio non lo molla un attimo. Così. Attenzione. L'ultima cosa, dopo quello che è successo con Cassano, aumentano le responsabilità di Palacio? No. C'è so niente. Come è successo? Come è iniziato? Non so perché Spintoni, Spintoni. Cioè, no, Spintoni. Poi è arrivato primo Stankovic, secondo Ivano Cordoba, a dividerli. Che tutti quanti noi siamo lì a immaginare Stankovic pacere. Beh, sì, quando non è lui che litiga, guarda, è uno dei migliori paceri che proprio, ci siano. È un babà, guarda, proprio uno veramente che ci vuole tanto bene. Possiamo leggere i risultati di oggi, magari anche quelli di ieri no, ma quelli di oggi sicuramente nella versione fantacalcio in questo caso. Sì, Torino-Palermo 0-0. Oggi alle 12.30, nulla da segnalare. Bologna-Cagliari 3-0. 0-0. Beh, 0-0. Beh, facile, una tristezza di partita di dimensioni epocali. Bologna-Cagliari 3-0. Taider, Diamanti e Pasquato. Questi sono i marcatori senza assist. Catania-Inter 2-3. 2 per il Catania con Berghesso e Marchese. 3 per l'Inter. Però molti assist. Alvarez, Palacio, Palacio i marcatori. Assist di Palacio, Pereira e Rocchi. Tutti i gol dell'Inter sono venuti con un assist. Quindi e invece del Catania niente assist. Il Catania niente assist, perché il primo di Berghese è stata una vaccata di Juan Jesus. Ah, ti sento tecnico. Oggi. Troppo, vaccata, dici troppo? Dicasi vaccata. Niente, stava difendendo la palla che stava uscendo sul fondo, se l'è fatta fregare da Berghesio, che poi l'ha messa dentro. Sì, ma proprio una cosa. Vabbè. Fiorentina-Chievo 2-1, Pasquale Larrondo, e mentre il gol del Chievo di Cofì ha un assist di Guana, perché c'è stato un cross dalla destra, poi Cofì l'ha infilato. Quindi Pasquale, quello di Larrondo particolarmente divertente, nel senso che la palla gli è sbattuta in testa in mezzo all'area, non è che l'ha messa lui, poi gli è sbattuta in testa, è entrata. Pescara-Udinese 1-0, gol di Natale, un'azione di Muriel sulla destra, lì forse potrebbero dare l'assist, forse no, non si sa. Sampdoria-Parma 1-0, gol di Icardi su calcio di punizione di Estigarribia, quindi in questo caso potrebbe starci l'assist. E l'Atalanta ha segnato 2 gol con il Siena, 2-0, doppietta di Bonaventura, niente assist. Ecco, allora volevo darti questa notizia. Allora, c'è un po' grillomania, sì. No? Allora è arrivato Branca a casa, Cassano a casa, Strama a casa, cioè un po' così, no? Cioè, tutti a casa? Sì, tutti a casa, cioè, voglio dire, in questo caso è. Vabbè, sono cose che Moratti a casa, secondo me, sì, ma Moratti Zanetti? A casa, voglio vedere chi è che trovano per mettere dentro dei denari. Grande abbraccio fra Stankovic e Stramaccioni, che arriva adesso ai microfoni, bello caldo. Ora, in questo momento forse, no, sì, non sì, ancora, sì, è sì, già sì, lì, sì, sì. Sentiamo. Che effetto le fa adesso? Buona. Cioè, lo psicanalista a cui facevamo riferimento nelle nostre sintesi per capire... Le motivazioni del primo tempo, lei l'ha consultato oppure semplicemente è bastato andare negli spogliatoi e radunare le idee? Ah, io credo che siamo partiti malissimo, e complice anche un ambiente pazzesco, bellissimo, e l'euforia del Catania, che è in un momento straordinario, che è partita fortissima sulle ali di questo stadio. E purtroppo abbiamo commesso noi un gravissimo errore sul primo gol e un altrettanto grave errore sulla punizione, perché pensa com'è triste, pur avendo i nostri tre dei nostri migliori saltatori da quella parte, Marchese ha saltato da solo e quindi abbiamo avuto questi 20 minuti, secondo me, che in un momento come questo, Luca, se la squadra non avesse un suo spessore, una sua forza, sarebbe stato praticamente impossibile. Stamaccioni, voglio farle vedere, prima di andare alle domande di Andrea Paventi, visto che parlava degli errori, Luca Marchegiani, tu hai preparato proprio l'analisi di questi errori, fate le domande. Primo è un errore individuale. No, non possiamo vederle, no, gli errori, non possiamo vederle. Niente, gli errori, poi abbiamo già parlato dell'errore di Juan Jesus che difende la palla che sta andando sul fondo e poi viene fregato, da uccellato, esatto, in gergo tecnico, da Marchese, gran fila. Di andare sul suo destro, ha sempre cercato di... Vabbè, sono i gol che ha fatto già orora l'Inter, adesso, anzi prima il Catania, poi l'Inter in questo caso, però non dice niente Stramaccioni, guarda che sei veramente una cosa insopportabile. Noi ti aspettavamo, ti abbiamo tanto aspettato, beh allora a questo punto andiamo col traffico, perché poi magari torniamo direttamente a lui, ci darà delle cose da dire. Dai e vai Radio 24, è Stramaccioni Day mi sa oggi, perché è la grande rimonta che ha fatto. Tommaso, secondo me ha fatto la sua partita, è stato in campo nei momenti più difficili della partita e ha avuto un paio d'occasioni, ha cercato di sfruttarle, ma secondo me un allenatore non è un giornalista, è un allenatore che deve cercare di valutare la prestazione anche in relazione a quello che poteva fare, quindi secondo me in relazione a quello che poteva fare, alle palle che gli abbiamo fornito, la prestazione di Rocchi è secondo me sufficiente. Poi è normale che era un giocatore che non giocava da un po', e per me è importante che lui abbia anche ritrovato un pochino il ritmo partita, perché sarà da qui alla fine molto importante. Come si riparte domani con Cassano? Ma no, domani c'è allenamento, attenzione. E Antonio, come tutti gli altri suoi compagni, sarà presente. Poi chi ha giocato farà rigenerante, chi non ha giocato ci prepareremo alla sfida di giovedì con la solita, cercando di prepararla al meglio. Ilaria. Massimo Mauro. Massimo Mauro, avete insomma esplorato tutto, quindi è un po' complicato. Se mi consenti, Andrea, credo che il secondo tempo è stato perfetto e quindi l'Inter ha dimostrato di meritare la vittoria, perché davvero non è stato convinto, uno splendido secondo tempo. Ma nel primo tempo si può dire che sono state sbagliate le scelte, allora? Stiamo vedendo i gol, secondo me non è un discorso di scelte, perché il gol è purtroppo, ripeto, avevo già sottolineato prima la reazione, un errore individuale, e questa punizione che abbiamo fatto un errore clamoroso, perché che i nostri tre migliori marcatori, Kivu, Juan Jesus e Schelotto, i saltatori volevo dire, Kivu, Juan Jesus e Schelotto, e ha saltato solo Cristian. Cioè questi sono purtroppo episodi che a questo livello ti condizionano una partita, però non erano... È la qualità del gioco, cioè... Andrea, è la qualità del gioco. Se possiamo interloquire un attimo... la qualità del gioco... No, se possiamo interloquire c'è scazzo, c'è scazzo. La qualità del gioco è stata... L'Inter ha giocato molto bene nel però secondo se tempo, c'è Palacio... E non Rocchi, la qualità del gioco è un'altra cosa. L'idea è perché ha scelto Rocchi dal primo minuto, avendo Palacio in panchina e con tutta l'emergenza Cassano, Milito fuori, eccetera. Ah, questa era la domanda, non avevo il capito. Senso, no? Questa non è male come prestazione. No, no, ma non c'entra assolutamente. Il discorso è molto semplice: abbiamo 5 partite in 14 giorni. Ah, e poi bisogna risparmiare Palacio, perché insomma. Un discorso di gestione. Quindi, dunque, il Catania ci arriva ovviamente sul 349-238-6666. Il Catania ha perso perché non ha capito che l'Inter non ha scarsa e scarsa, non ma, è scarsa ma psicopatica. Non è scarsa ma psicopatica. Psicopatica. Perché continuiamo sempre a averla al posto della E? Ma sono cose che succedono. No, perché le lettere accentate sugli SMS ogni tanto hanno così, dei problemi. Ci mettono sempre difficoltà. Vabbè, esatto. Comunque di fatto difficilissima. giocata a un'intensità elevatissima e Bergonzi secondo me... Vabbè, è stato bello comunque, diciamolo chiaramente, insomma questa Inter è ancora lì e se la gioca ovviamente con il Milan per quanto riguarda il terzo posto, giusto? Perché la classifica l'abbiamo già data. No, non l'abbiamo ancora data, la diamo in questo momento. Aspetta che c'è Porrà. È abbastanza spinosa, però insomma è importante visto il valore del giocatore. No, solo un piccolo chiarimento, se ritiene opportuno darcelo. L'impressione da quello che trapela è che non si è trattato insomma di un eccesso, di un episodio isolato, ma no, del culmine insomma di un logorio covato da tempo all'interno dello spogliatoio. È giusto così, è corretto, poi soprattutto il giocatore verrà reintegrato a brevissimo? No, ma non c'è da reintegrarlo, perché non è mai stato escluso. Io credo che voi avete tutti molto più esperienza di me, credo che ci possa essere in qualsiasi spogliatoio ci possano esserci delle discussioni più o meno accese. Io l'ho già detto ieri in conferenza, dal primo agosto ad oggi ne ho fatte altre, però magari non sono uscite, quindi visto che comunque siamo in uno spogliatoio fatto di uomini, ci può essere uno scambio d'opinioni più o meno accesi, o poi ognuno ha il suo carattere. Io poi sono allenatore dell'Inter e faccio le mie scelte, ma non c'è nessun tipo di esclusione per Antonio. Io ho deciso di non convocarlo, ma questa è una scelta. Vabbè, che questo è il linguaggio che normalmente si è fuori comunque dal mondo del calcio. Siccome c'è uno spogliatoio di uomini, e allora gli uomini devono fare sempre delle cose. Devo mettersi le mani addosso. Sì, certo. Perché, detto, perché noi siamo una squadra di spogliatoio di uomini con gli attributi. No, di solito, quello non l'ha detto. Questo è strano, non l'ha detto, però guarda questo che è strama. No, però questa è la terminologia, no? Perché no? Cioè, ci sono dei giocatori che hanno degli attributi e quindi di conseguenza questi attributi. Attenzione, c'è ancora altro. Sì, perché per me non è stato assolutamente anormale prendersi avere a botte uno scambio di opinioni più o meno acceso con un mio giocatore. Non è assolutamente vero delle mani addosso. Poi io ho il mio carattere, i giocatori hanno il loro, c'è comunque fra tutti grandissimo rispetto. Da qui alla fine noi avremo bisogno di tutti, anche di Antonio Cassano, quindi credo che anche ti con ripeto, il per me è una cosa che giovedì? Attenzione, sì, toccando ferro, perché qui a livello di infortuni abbiamo sempre, certo. Non siamo fortunatissimi, però a livello di assolutamente sarà nei 18, poi vedremo se è partita dall'inizio, un panchina, quello poi sarà. Scusa, una Andrea, l'ultima cosa, poi ti lasciamo. Visto che sei stato il suo principale sponsor, no, nell'acquisto, nell'arrivo, ti aspetti delle scuse visto il rapporto che avevi particolare con lui? Sei ancora convinto che si possa gestire un carattere così difficile come quello di Cassano? No, basta, Cassano è veramente tediato. No, mi sembra che abbiano già esaurito. Hanno già esaurito. Esatto. Soltanto che non gli arriva nessun altro allenatore, quindi inchiodano il primo che è arrivato in questo caso. Il povero Stramaccioni, anche perché poi diciamo le contestazioni arrivavano soprattutto da Massimo Mauro. Sì. Una persona che negli spogliatoi c'è stato, quindi un certo opinione di quello che succede negli spogliatoi ce l'ha. Esatto. Comunque è normale che ci si scazzi un po' dentro gli spogliatoi, mi sembra normale. In alcuni spogliatoi si scazza meno, voglio dire, negli spogliatoi di Capello difficilmente ci sono dibattiti. È vero, però ad esempio ricordiamo Ferguson che ha tirato una scarpa addosso a Beckham e l'aveva preso nell'occhio. Cioè, neanche il tacchetto però. Esatto, quindi... questo è un po' lì, è pericoloso. Possono succedere queste cose. Vabbè, comunque andiamo con la classifica a questo punto, perché è quello che ci interessa in questa fase. Esatto, la Juventus è in testa, campionato finito, 6 punti di vantaggio, ne ha 59 sul Napoli che ne ha 53, poi c'è il Milan a 48 punti, Lazio e Inter 47, la Fiorentina a 45 punti, il Catania 42, una coppia a 40 punti sono l'Udinese e la Roma, ma la Roma questa sera deve giocare contro il Genoa il posticipo. Poi la Sampdoria a 35 punti, a 32 ci sono Parma, Torino e Bologna, a 31 punti il Cagliari, 30 punti l'Atalanta, Chievo 29, Genoa 26 e il terzetto lì in fondo a pari punti, a 21 punti sono Pescara, Siena e Palermo. Bednar, te lo ricordi? Sì, certo che me lo ricordo. No, perché è così, no? Bisogna dare tutte le notizie. Intanto è arrivato Simone. Pronto, Simone, vuole dirci qualcosa? Sì, buonasera. Sì, io un attimo fa volevo un attimo intervenire sul discorso di Cassano, Stramaccioni, eccetera. Dici. Cioè, io da interista sfegatato cerco di dare una chiave di lettura un pochino da una persona un pochino più tranquilla, non molto preso, insomma. Però dico che i Stramaccioni, come anche Moratti, insomma, gli ingredienti sono quelli del giocatore. È inutile che cerchiamo di pretendere chissà che. Era normale, inevitabile, già inizio campionato, che l'Inter, secondo me, non poteva ambire neanche allo scudetto. L'Inter sta pagando, a mio dire, quei 5 anni di successi, si sono un pochino adagiati e nello stesso tempo anche Moratti si è dovuto pure tranquillizzare anche con le spese, non più esose come una volta. E quindi, insomma, riniziare sana pianta con quei giocatori nuovi che ci sono, insomma, ci vorrà del tempo per trovare, non so, quella chiave che possa far sì che l'Inter arrivi subito ai vertici come una volta. E quindi Stramaccioni fa di tutto, io non ce l'ho neanche con Stramaccioni. No, con chi ce l'hai allora? No, cerco di difenderli, mi arrabbio perché da interista a me piace vincere una volta magari ogni 5 anni, ogni 4 anni e non ogni 20 anni, magari per 3 anni, 5 anni di fila, e fare queste cattive figure, cioè queste figure indecorose che insomma da inizio anno, come diceva, come ho sentito pure prima, insomma su 10 partite, soltanto 2 vittorie, insomma non è da Inter, Milan, Juve, insomma. Beh, da Inter sì, negli ultimi 20 anni, no, Inter ha fatto anche spesso, però il problema vero è che però in questo caso cosa fai con Stramaccioni? Perché poi ha vinto, ha giocato male, non c'erano tutti i giocatori, poi c'è un'altra partita giovedì, ha messo questi, certo il Catania è forte, lo si sapeva, Tu lo vuoi ancora il prossimo anno Stramaccioni? Io sinceramente a me piace perché io vorrei... Perché è giovane? Cosa che... Sì, ma è giovane e poi ha quel carattere un pochino determinato. È una chiave, diciamo, un stile Mourinho, diciamo così. Beh, però... molto lontano voglio dire, però possiamo immaginarlo. Cioè, nel senso che è determinato come Mourinho, i risultati un po' meno, o no? Ma parliamoci francamente, Mourinho secondo me un colpo di cellulare, Moratti voglio questo e veniva accontentato. Attenzione che da Mourinho c'erano fior fiori di giocatori. Senti Simone, tu da tifoso interista come dimenticarci Quaresma? No dai, Quaresma no. Quello sì, poverino. Come dimenticarci? Che l'ha portato apposta. Come dimenticarlo? Voglio dire. Ma nella storia dell'Inter c'erano giocatori quel Vampeta lì. No, ma non entriamo in quel merito lì che diventerebbe poi lunga la cosa. Da tifoso interista, qual è il risultato minimo che ti aspetti quest'anno? Cioè, non so, la Europa League, la Coppa Italia, il terzo posto. Cioè, qual è il minimo sindacale sotto il quale Stramaccioni a casa? Allora, da Inter io vorrei, quindi una delle squadre, insomma, d'Italia... veloce. Vorrei un terzo posto. Terzo posto, quindi. Però secondo me sarà infatti, anche se comunque il Napoli e la Lazio poi scenderanno perché non hanno quella cattiveria, specialmente il Napoli non ha quella qualità e quella freddezza da poter fare. Visto anche in questa maniera. Tanto ormai l'abbiamo già sentite queste cose qua che il Napoli prima o poi, però è sempre lì il Napoli alla fine della fiera. Ardita, sì. No? Cioè un po' come ardita? Dire. No. Sì, cioè voglio dire, no, però. Esagerato? No, perché non è esagerata, anzi, diciamo che tutto sommato l'arrangiamento è quello che è, però rimane pur sempre O Sole Mio. Esatto. Dire. Sì, sì. La mettiamo lì così, la versione è pur sempre impegnativa. Una versione di una canzone napoletana cantata da un algerino che vive in Francia, cioè, sì, praticamente sì. C'è mezzo Mediterraneo qua. Sì. Vabbè, cioè, insomma, tra l'altro c'è la signorina che canta in inglese, sì, vorrei dire, vero, quindi lo so. Bene, magari di Malta lei, no? Cioè in questo caso. No, mentre quindi... voi vi state perdendo su contaminazioni musicali, vai, vorrei ricordarvi... Ciao Cancellara, dove sì. Sei fuggito? Tu stavo seguendo la finale di Coppa cosa? Italia del futsal, calcio a 5 femminile. Il futsal? Il calcio? Calcio a 5. I futsal? Il futsal. Cioè noi giovani diciamo futsal. Sembra un'applicazione. Cioè, no, calcio a 5. Giù. Sai quello che Luca Gattuso fa il giovedì? C'è l'app del futsal? C'è pieno di app del futsal. Cioè, ma se non c'è app io non lo tiro giù, cosa, ma quando tu vai a giocare con i tuoi amici sì. Quella palestra scrausa sì. Dove vai a giocare il martedì sì. Sera dici andiamo a giocare a calcetto o a futsal? A futsal. Ma è un po' per credo. Controbilanciare le nostre doti tecniche. Sì, allora scusa Luca, fammi sì. Questo favore Cancellara, sì. Intendevo non presentarmi i tuoi amici. No, mai, però in questo caso. No, comunque sta andando in scena a Pescara, al Pala Giovanni Paolo II, sì, la finale del femminile. Il Real Statte è avanti 2-1 contro il Sinnai. Sì, mentre si è concluso, non l'avresti mai detto, vero? No, infatti sono annichilito da questa notizia, l'ho percepito dal tuo sguardo. Colto che, Invece nel pomeriggio l'Under 21 Chaos Futsal, vedi che anche loro nel nome ce l'hanno, ha battuto 5-2 l'Asti. Come si è giudicato quindi l'Asti la c'è un pesce? L'Asti. Ah, scusa. Certo, certo. Okay, mentre alle 19 ricordiamo l'avvenimento di giornata, la Luparense contro la Cogianco. Sì, che quindi darà il titolo assoluto di campioni d'Italia 2013. Futsal. Già mi sono sbagliato. Se io vado a cercare quindi l'applicazione, l'app, no, sì, Futsal non c'è. Futsal. Si legge Futsal. Adesso fa molto Brasile, hai capito? Beh, certo, vabbè, che vergogna. Ma abbiamo già detto che l'Italia femminile di Hockey Prato. Ma non vogliamo dirlo. Ha vinto 1-0 contro l'Irlanda. Quindi accede alla fase finale della World League. Entra nelle prime 16 squadre del mondo. Puntiamo a Rio. Scusa, io mi sono fermato, l'abbiamo già detto. Poi cos'è che hai detto poi? Ok, Prato. Ah, diciamo, no, femminile tra l'altro. Assolutamente, femminile. Vabbè, insomma, io voglio dire, vorrei entrare in sport più impegnativi, sport veri, sport che in qualche modo dicono qualcosa, dove il corpo viene stressato, dove il corpo viene messo a dura prova in questo caso. Hai mai giocato anche su Prato tu? No, a proposito di corpo stressato, poi vediamo, fai una partita, poi vediamo quanto ti stressa il corpo. No, ma voglio dire, adesso perché devi sempre entrare? Volevo dare il lancio del nuovo servizio, me l'hai già segato, cioè adesso devo inventare qualcos'altro per giustificare la presenza, per esempio, di Francesco Maineri. Adesso Luca Cancellara giustifica la presenza di Francesco Maineri. Cioè, lui in un programma televisivo cinese. Ok, basta, la sai, hai studiato questo. Ah, vabbè, okay. Luca, tu giustifica la presenza di Francesco Maineri. Lui in un programma televisivo... No, è copiato come al solito e quindi non va bene. Bene, in un programma televisivo cinese Francesco ha fatto 35 milioni di ascoltatori e tra l'altro senza urlare perché normalmente poi uno urla e neanche senza cantare le canzoni di Sanremo. Esatto. Giusto, Francesco? Ciao a tutti, sì, sono qui. Sì, 35 milioni di ascoltatori. Intanto scusa, di spettatori, perché era in TV. Sono qui dove? Qui a Shanghai. Perché se no sono qui per noi, cioè, capito? Che ora è? Vediamo se è vero. Sono le 12:30, antipassate. Visto. Di notte però, non di giorno. Quindi mezzanotte. Questo, vabbè, poteva essere, secondo me, a Siena. Poteva anche com'è la notte a Shanghai? Ma che domanda è? Dai, lo chiamiamo Shanghai per altri motivi. No? Molto, a parte la temperatura che è fredda, ma è molto calda la notte a Shanghai. Molto calda, tutto un bollore lì, sciambola, Sciambola a Shanghai. Bruttissima questa, vabbè. Senti, tu hai avuto 30... Questo non va bene per lo sport, però purtroppo. Esatto, perché? Perché se una persona comunque va in giro la notte, poi dopo non riesce a prepararsi per lo sport. E tu bighelloni alla grande alla notte, Infatti purtroppo direi che non sono un professionista dello sport. Ecco, vabbè. Ecco, d'altra parte come tu sai c'è qualcuno che persino ha difficoltà a considerare sport il ping pong. No, ping pong si arrabbiano come delle belve, tennis tavolo. Non noi, c'è gente che adesso non è entrata neanche in Parlamento, voglio dire, no? In questo caso che non considera ping pong uno sport, invece noi lo consideriamo un grandissimo sport, tanto che ti abbiamo telefonato. Infatti vi ringrazio tantissimo per questa opportunità, perché siamo gli unici che ti hanno telefonato. No, chi è che si arrabbia in Italia che non viene, se non no viene, scherzavo, così. Adesso non possiamo farti tutti i nomi perché sennò diventa imbarazzante. No, scherzavo, no. Perché se venite qui in Cina secondo me vi fanno fuori. Esatto, perché tu hai giocato a ping pong, a tennis tavolo per capirci. Con chi? Con una grandissima campionessa del passato qui in Cina, che ha fatto non so quanti campionati e li ha vinti quasi tutti. Sì. Che si chiama Cao Yu Yuan Hua, difficilissimo da pronunciare, sì, chiaramente. Ed è una venerata come una dea qui in Cina, non solo a Shanghai. Ecco, sì. Tu quanti anni hai, Francesco? Io ho 47 anni. E che cavolo ci fai, scusa, a Shanghai? Ma io sono qui per business, per lavoro. Ah. E ogni tanto giochi a ping pong da tanto tempo? Non tanto, 6 anni soltanto. Sì. Ho iniziato 6 anni fa a Pavia, dal Buzzano per la precisione, col grandissimo Amedeo Maierna, che vorrei anche salutare. Ma anche noi lo salutiamo. E... ciao Amedeo. E niente, questa passione è nata pochi anni fa, 6 anni fa, anche se però era latente, perché devo dire, mio padre è stato campione italiano dei vigili urbani. Ah, beh. Beh. Ma come non dimenticarsi? Butta via, Vabbè, campione numero uno, Sì, certo. Però ai tempi purtroppo non avevo questa passione, quindi non l'ho professata con lui. Mi è improvvisamente scoppiata quando ho conosciuto Amedeo, eravamo colleghi. E quindi ti sei buttato ovviamente sul ping pong. E tu adesso giochi normalmente, cioè quasi, cioè non lo pratichi, lo pratichi però amatoriale, cioè a livello amatoriale, no? Beh, agonistico, diciamo, così, sì? 3 volte a settimana, attenzione, per 3 ore ogni volta, quindi abbastanza pesante. Ma è una squadra lì, giochi dentro un... è un club, sì, una squadra, ci sono almeno una ventina di persone. Tutti cinesi? Tutti cinesi, io sono l'unico straniero. Quindi qua. Sei lo straniero della squadra, insomma, in questo caso. Straniero della squadra. Sì. E hai fatto questa partita con Cao Yuanhua, che è appunto 7 volte campionessa del mondo, 51 anni lei, giusto? Sì, abbastanza... quasi come me. Sì, 51, sì, vabbè, adesso, meglio, no, adesso magari lei è un po' meglio, però voglio dire, 51 anni, ebbene, è stato trasmesso in televisione tutto questo, perché lei è un personaggio molto importante, il ping pong e il tennis da tavolo è altrettanto uno sport importante, 35 milioni di persone vi hanno visto, vi hanno guardato, hanno assistito. È stato l'audience che mi hanno comunicato successivamente, e io sono rimasto veramente stupito da questa cosa. Sì. Anche noi, Francesco, anche noi te lo diciamo proprio cordialmente. Senti, chi ha vinto? Pensate solo alla popolazione italiana, che sì, è sì, 60 sì, milioni. Sì. Abbiamo appunto pensato quello e ci siamo rimasti un po'. Chi ha vinto? Devo dire che ha vinto lei. Ma va. No, devi dire, cioè, ti ha umiliato quanto? Quanto ti ha umiliato? Cioè, non hai visto palla? Era proprio amichevole, perché la trasmissione non è una competizione. Cioè, lei, questa storia era amichevole, quindi lei giocava bendata, e questo è il concetto. Ah, anche, certo. E con una mano legata, tra l'altro, no, in questo caso. Che tra l'altro la mano che usava la racchetta. Sì, sì, sì. Ed era difficile sulla battuta, più che altro, perché non riusciva ad andare di là la palla. Vabbè, insomma, tu ti sei divertito, però. Lei com'è, tra l'altro? Tantissimo. Ma lei è adorevole, è proprio una bravissima persona, non ho capito quasi niente di quello che diceva, perché ha parlato sempre in cinese durante la trasmissione, però mi sono divertito. Ma tu da quanto tempo sei lì in Cina? Io sono 5 anni. 5 anni e ancora non capisci niente di cinese? È difficilissimo il cinese, ci ho provato all'inizio. Non c'era qualcuno che diceva ci vuole una vita per imparare l'alfabeto, un'altra vita per imparare a parlare, insomma. Sai che cosa ha detto? Perché poi l'hanno intervistata, ha detto peccato, non gioca male ma non capisce un tubo di cinese. Sì. Infatti probabilmente non mi inviteranno più. Sì, sì. E tra l'altro lei ha detto avanti un altro, ha detto anche, no? Se per quello, cioè se ci fosse il prossimo datemi uno che è capace di giocare. Esatto. Vabbè, è stato bello comunque, Francesco, immagino tutto quello. Adesso tra l'altro ti conoscono tutti, quelli del tuo club adesso sono un po' anche invidiosi o no? Cioè, no, anche perché sono stati invitati anche loro. Ah, ecco. Poi hanno scelto me in quanto l'unico straniero. Però sì, sì. Ma t'ha fermato qualcuno per strada, per caso, no, in questi giorni? Ma qualche mio amico, dunque la trasmissione più o meno 3 mesi fa, mi hanno fermato gli amici dicendo ah, ma sei tu allora che eri in trasmissione. È abbastanza piacevole questa cosa. Senti, meglio Shanghai o Pechino? Shanghai. Perché tutti mi dicono appunto, è meglio Shanghai, perché Shanghai è bella vita. No, sai che la notte è calda a Shanghai. No, perché è una bella vita a Shanghai. Invece esatto, Pechino è un po' noiosa, dicono. È più politichese. Più politichese. Vabbè, ho capito. Va bene, grazie, è stato bello, Francesco. Una buona notte a questo punto. Vai a ballare? Vai in vita? No. Domani si va a lavorare, quindi preferirei andare a dormire. Va bene. Buonanotte allora, grazie. Grazie. A presto. Ciao, grazie a tutti. Francesco Bainieri è ovviamente un giocatore di tennis da tavolo, lo straniero all'interno di, non ci ha detto la squadra, però all'interno di una squadra di tennis tavolo, un leader, non tanto un leader. ridere, no, comunque no, diciamo, uno che ha partecipato e che ha, come dire, è arrivato a toccare il suo sogno, sai, cioè, uno che ha curriculum può mettere: ho giocato con una 7 volte campionessa del mondo di ping pong. Ecco, lui non c'ha neanche il curriculum, già assunto a questo punto, chi se ne frega. Dai, vabbè, dai, arriva il traffico, arriva. Vado anche obliquo. Sì. Posso andare anche obliquo? Obliquo. Tu mi dai la certezza. Sì, sì, sì, no? Sì, sì, sì. In questo caso qua. No, no, no, puoi andare anche obliquo, orizzontale, verticale, obliquo, puoi andare come vuoi, guarda. Sei sicuro? Tranquillo, proprio sereno, proprio no, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Perché, vabbè, no. Quindi orizzontale, verticale e obliquo. Obliquo, sì, anche obliquo tranquillo. Puoi andare. Sì, sì, sì, sì, guarda, puoi andare proprio tranquillo. Ma tipo nomi della città, di città, nomi no, propri. Quello no, quello no, quello no, no. Nomi propri no. Lecca no, no. Sì, Lecce no. Lecca sì, Lecce no, esatto. E questo mi stai dicendo? Sì, esatto. Lecca sì, Lecce no. Esatto, Lecco sì anche. Lecco anche. Sì, perché ma non come città, ma no. come verbo. Come verbo, certo, certo, certo, assolutamente. Adesso comincio a capire qualcosa. Sai cosa faccio? Lecco proprio. Ecco, Lecco. Quanti punti sono? 50 punti in questo schema. 50 punti, esatto. Vabbè, Lecco in questo schema 50 punti. Vabbè. Sì, guarda, io ho resistito fino adesso, cioè sì. Lo diciamo ai nostri ascoltatori, secondo me non mi frega niente, cari ascoltatori, d'altra parte la trasmissione è poco competente e un po' fuori tono, sì, lo diciamo. È vero, è vero. No, però in questo caso, però lo diciamo per dirvi che insomma, esiste un gioco che è Razzle, sì. Lo diciamo, si chiama così, giusto? Si chiama Razzle. Razzle è un più gioco. Che un gioco è una droga sta diventando. Adesso, per favore. Beh, sì. Per favore, adesso prima facciamo la presentazione, sì. Poi facciamo i commenti, No, perché Razzle io ho fatto di tutto per evitare di imparare Razzle, ma adesso abbiamo scoperto che cosa? Che esiste già un campionato italiano di Razzle. E quindi forse rientra nella categoria sport, perché se consideriamo ad esempio il bridge e gli scacchi, che per alcuni sono considerati un gioco, uno sport, una disciplina sportiva, anche Razzle diventerà uno sport. Allora, Luca, capisco stare un po' fuori tono, ma così tanto fuori tono mi sembra un po' eccessivo. Allora, esiste un campionato italiano di Razzle. Che cos'è Razzle? La maggior parte degli italiani non so se lo sanno. Anche perché non tutti usano gli app o le applicazioni, sì, no? Lo smartphone, sai. O lo smartphone, esatto. Queste, oppure usano lo smartphone però soltanto per rispondere al telefono, esatto. Questi, quindi non è che serva moltissimo, o serve molto però non tanto. Bene, esiste questo campionato italiano di razza, ne parliamo con Andrea Manfredi, no? Perché, no? Pronto Andrea, ci sei? Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, voce giovane, quindi sei in tema con l'andamento del paese in questo momento. Quindi se non sei giovane sei un deficiente, quindi te lo dico già subito ormai. Allora mi salvo. Passa così, salvo. Passa così, passa così. Senti, di che hai 25 anni che hai messo su una specie new co di una società di quelle nuove, hai fatto una barca di soldi? Fosse vero, no, di anni ne ho 35. Beh, però attenzione, sei al limite. Sei sul borderline. Sei sul borderline. Mi sa che tra un po' tu marchi malissimo, tra l'altro. Ma facciamo cose internet che va di moda. Ah, sì, okay. Vabbè, quindi, certo, anche quello va molto di moda, certo. Per essere il prossimo presidente del Consiglio. Forse. Beh, lo sta cercando. Lo sta cercando. Io ti aspetterei le prossime elezioni. Adesso butta malissimo in questo caso. Senti, Andrea, che cosa sta succedendo? Allora, campionato italiano di Razzle. Razzle, intanto bisognerebbe spiegarlo. Che cos'è Razzle per il nostro ascoltatore? È un gioco in realtà molto antico, è il vecchio paroliere riportato sugli smartphone, quindi sull'iPhone o sui Samsung per intenderci. Quindi un gioco che ha avuto una grossissima diffusione in Italia come prima motivazione, perché è un gioco che in realtà conosciamo già tutti, siamo abituati a giocarci su tutte le generazioni. Il concetto è molto semplice, uno ha tante lettere all'interno di un quadro sul proprio smartphone e deve comporre delle parole di senso compiuto. Quindi nella sostanza abbiamo portato il paroliere, come che l'hai chiamato tu? Paroliere. Il paroliere, una volta come il gioco di carte, il solitario, si giocava a carte, l'abbiamo portato dentro il computer, adesso di colpo abbiamo portato dentro anche il paroliere e quindi uno gioca, no? Costruisce queste parole. La cosa interessante, se ho ben capito, è che ci si può sfidare con altre persone, non necessariamente presenti. No? Esatto, questo intendo... ha dei vantaggi, perché gli amici magari molte volte sono noiosi, no, queste cose qua, tu giochi comunque con loro e quindi sono utili, ma però non danno fastidio, quindi questo è un po' il vantaggio, no? Questa è una delle grandi cose belle di questo gioco, che si può giocare, si dice, in modo asincrono, cioè uno sceglie i propri amici, sceglie degli avversari a caso, in modo che non tutte e due le persone siano contemporaneamente presenti. Esatto. Ecco. Quindi si può giocare a distanza senza la presenza comune. Senti, voi avete calcolato quanta gente ci gioca in Italia? In Italia ci sono almeno 7 milioni di persone che oggi giocano a Razzle. Cioè, scusa, attenzione. 7 milioni vuol dire che una persona su 9 che incrocio in giro gioca a Razzle? Ma probabilmente una persona su 2 di quelle che tu incroci in giro, perché se tu vivi in una grande città, la diffusione degli smartphone è molto più presente nelle grandi città, quindi è lì che si concentrano, certo, le grandi persone. E di questi quanti hanno votato Monti? Non c'entra, scusa. Non c'entra niente. No, perché siamo Monti sono 22 punti a Razzle. Monti, ecco, tu li sai già a memoria le parole, sì, giusto? Però IMU e Topless fanno molti più punti su Razzle. Il Topless, quindi... guarda, fa sempre molti più punti, ma tranquillo. Quindi alza sempre. Sicuramente comunque fa molti più punti di Monti il Topless. Va bene. Torniamo a noi, vi ringrazio anche per aver dato questa ventata un po' erotica a questa trasmissione che ci sta un po' ammorbando, però diciamolo in questo passaggio, cioè, allora, Razzle, 7 milioni di persone stanno già giocando con Razzle. Dici anche quante applicazioni sono state scaricate? Io l'ho visto un attimo, più di 10 milioni mi pare. Sì, sono circa 10 milioni di persone. Sono 10 milioni di applicazioni scaricate. Qua è venuta l'idea di fare il campionato nazionale italiano di Razzle, perché alla fine molte persone si stavano iniziando a annoiare, perché è vero che giocare contro persone che non si conoscono all'inizio è divertente, però poi non c'è una finalità. Certo. E noi abbiamo dato una finalità a questo gioco, quindi scoprire chi è il migliore in Italia a giocare a Razzle. Ma fammi capire, cioè, il problema è che manca la socializzazione, giusto? Non si socializza con Razzle. Esattamente, non si socializza. E quindi diventa un gioco un pochettino freddo dopo qualche partita. Dove e quando? Il campionato inizia l'11 marzo, è un campionato che dura 5 settimane, funziona in modo abbastanza semplice, sono partite sempre uno contro uno. Chi vince sale di un livello e chi arriva al livello più alto ha vinto il campionato. E viene fatto tutto online, quindi, cioè col telefonino? Il gioco viene fatto tutto online, esattamente. C'è un'applicazione che è l'applicazione del nostro campionato, che si occupa di dare gli avversari, gestire le partite e gestire i risultati. Vabbè, ma quindi ci sarà un momento in cui verrà premiato, annunciato, insomma, chi è che vincerà, insomma, questo Razzle italiano per il momento? Assolutamente, questo verrà fatto a metà aprile, alla chiusura del campionato, in cui faremo vedere tutte le classifiche, saranno sempre disponibili in tempo reale. Resta lì, dobbiamo andare in GR in questo momento, noi ti prenderemo subito dopo. Ciao, grazie. In questo momento, dai, vai, non è solo calcio, Radio 24, 800 24 0024 per quelli che vogliono telefonare, e invece 349 238 6666 per continuare a mandarci altri sms, oppure Twitter, anche su Twitter, perché facciamo veramente i giovani, diciamo, quelli tecnologici, c'è, no? Facebook, c'è Twitter, c'è tutto, pagina fans ovviamente, esatto, di Facebook. Ma su Twitter ci hanno chiesto appunto una cosa in particolare per Andrea Manfredi. Chi è Andrea Manfredi? È quello che ha inventato il campionato italiano di Razzle, giusto Andrea? Giusto. Ecco, allora, torniamo alla domanda che si pongono, cioè, ci hanno posto proprio Aurora su Twitter, è stata una soltanto. Cioè, come si fa ad aggirare tutti i trucchi che esistono? Perché ci sono delle applicazioni con cui si può truccare e trovare le parole su questa schermata. Allora, come si fa a mettere in atto i trucchi? È facile, basta utilizzare le applicazioni. No, certo. Che sono ma nel campionato italiano, evitare che vengano utilizzate. Noi abbiamo sviluppato due sistemi, un sistema è un sistema di analisi e un sistema invece è più software, che ci dovrebbero mettere in grado di scoprire o intercettare la gran parte dei, diciamo, dei truffatori. quindi da questo punto di vista siamo abbastanza sicuri di prendere quantomeno le casistiche più elevate. L'altro fattore importante è che questo è un campionato di scontri uno contro uno. Stiamo giocando un po' a razza nel frattempo. Giusto. No. Quindi anche nel caso in cui ci fosse una partita diciamo con una persona che bara, in realtà non inficia tutto il campionato. Ah, quindi basta una soltanto, però, che se bara, tu sai che adesso è un periodo in cui meglio non barare, cioè il paese ha questa ondata, appunto, giustamente, finalmente, no? che tende a evitare tutti i vari bari. Ma c'è un meccanismo, nel senso che stiamo parlando di razza, è una cosa che si gioca con il cellulare per capire i nostri ascoltatori, ma anche con l'iPad, e in questo momento stiamo appunto... Luca, sì, cos'è che hai scritto? No, ha scritto LOR. LOR. Ho fatto 21 punti, 21 cioè, mica punti male. Per LOR, in questo caso. È un modo, è il vecchio paroliere, lo dico per quelli che non hanno ancora, che non sono ancora attrezzati e hanno diffidenza verso tutta la tecnologia, è il vecchio paroliere però portato all'interno dell'iPad, all'interno del cellulare. È un po' come i famosi solitari, no? Di carte, no? Sì, diciamo, esatto. Qualcuno lo conosce come Scrabble, Scarabeo da un certo punto di vista. Ecco, lo scarabeo è così, entra dentro in quella terra di mezzo che non sono quelli che vanno oltre i 70 anni e quelli che invece sono tra i 40 e i 70 anni, giusto? Va bene, più o meno lo scarabeo mi sembra che è stato uno dei giochi che è stato più utilizzato, però questo problema del avere anche degli app che possono in qualche modo risolvere tutto quanto e in qualche modo barare, no? È un problema che prima o poi bisognerà risolverlo. Come si potrà affrontare in generale proprio? In generale quando uno gioca è semplicemente la voglia di giocare, di farsi una partita, quindi non è una cosa che si può risolvere facilmente. Noi crediamo di averlo risolto, ora non vi racconto esattamente come, perché se vi racconto esattamente come poi certo, dobbiamo ripartire certo, da capo. Certo. Ci sono sia delle metodologie di analisi, sia proprio degli strumenti di software, quindi più meccanici, se vogliamo, che ci lasciano abbastanza tranquilli. Ma quindi andiamo da... Senti, vabbè. Costo per partecipare al campionato italiano e cosa si vince? Il costo è gratuito, quindi tutti possono partecipare, basta iscriversi andando sul sito ruzzoliamo.it. Si vince il primo premio finale, un MacBook. Scusa, avete chiamato il sito? Ruzzoliamo.it. No, perché stava passando così come se non la fudesse questo titolo un po' così tardo creativo, ruzzoliamo.it, va bene, ok, mi hai convinto. Che poi suona bene, ruzzoliamo sul divano, ad esempio. Certo, no? Ormai certo. Tante persone che giocano anche in coppia, ci sono un sacco di possibilità. Certo. Questo è per quanto riguarda il mercato immobiliare, certi versi. Vabbè, poi? Esatto, quindi un MacBook Pro, poi ci sono due premi che sono buoni tecnologici, ma soprattutto 50 premi settimanali che sono buoni vacanza per due persone. Niente, come hai sentito, tempo scaduto. Mi dispiace, avete messo voi questo gong e quindi non è colpa nostra, dobbiamo chiudere anche questo collegamento. Senti, è stato bello, è stato interessante, noi ovviamente attendiamo da te delle indicazioni per sapere chi ha vinto, chi sarà il vincitore, tra quanto verrà poi annunciato? A metà aprile. Metà aprile, vabbè ci abbiamo tempo insomma. C'è tempo. Grazie, una buona, buona serata, grazie per la tua disponibilità. Ciao. Questa notizia da già un bel po' di tempo fa, no? Bentner. Quello della Juve, quello che non ha mai giocato, appena hai giocato si è fatto male, si è sbriciolato tutto. Appena giocato, è stato due mesi lì a ciondolare, Niklas si chiama, Niklas. Danese, no? Giusto? Come biscotti, giusto? Copenaghen, beccato. Non è danese, mi sa, è Copenaghen, però poi dopo fai attenzione. Allora, teniamo buono. Hai tempo, due minuti come razza, per risolvere questo problema. problema, no, è stato fermato, sì, contromano nel centro di Copenaghen, sì, mentre andava contromano, ma stava andando alla statua della Sirenetta, no, guarda, no, adesso vabbè, adesso siccome c'è, cioè, luoghi comuni, questa roba qui, vabbè. No, insomma, è stato beccato ed era, aveva bevuto, cioè era, no, aspetta, quanto perché tutti bevono, cioè, no, diciamo che lui aveva bevuto tanto, tantissimo, perché guidava contromano nel centro di Copenaghen, in stato di ebbrezza. Il fatto è stato, insomma, si è verificato la scorsa notte. E lui, la cosa più interessante di tutto questo qua, non è una grande notizia, però mi fa impazzire il fatto che abbia dato tanto questo. Non è bello quello che ho fatto. E dov'è che l'ha fatto questo? Dov'è che l'ha detto? La dichiarazione? La dichiarazione, ah, su Twitter l'ha detto. Non è bello quello che ho fatto. E dopo, subito dopo, non è buono quello che ho bevuto. No, sì, non è vero. No. Porque yo me crié en los estados, que yo no soy puro boricua, pero están equivocados. In my eye, ni be sweating, and I'm chilling like a nevera. A donde quiera que yo esté, yo voy a seguir sembrando mi bandera. Saludos a todos los boricuas en este planeta. Sea donde sea, el boricua se respeta. Esta canción yo se la estoy dedicando a los boricuas mundial. Ora, ne avevamo parlato proprio la scorsa settimana, giusto? Sì, sì. Mica, mi ricordo, di musica sudamericana? No, non mi ricordo. No, guarda che questo, cioè, anche. Ah. No, non abbiamo parlato proprio di questo, proprio, okay, di preciso. No, abbiamo, no, perché sai che ad Acapulco, Sara Errani ha conservato il titolo WTA e ha battuto 6-0, 6-4 la spagnola Carla Suárez. Ad Acapulco. Ad Acapulco. Grazie. Poi ho fatto un tuffo e via. No, grazie a Cancellara per averci dato questa notizia, no? Cioè, quella è la parte del non è solo calcio. È anche tennis. No? E noi continuiamo a parlare del non è solo calcio. Vogliamo parlare di altre cose. Vogliamo parlare di atletica, vogliamo parlare di atleti europei, giusto, Luca? Esatto, vogliamo parlare di europei di atletica leggera che si sono conclusi oggi in quel di Göteborg. Abbiamo vinto, diciamo, abbiamo vinto tanto, perché abbiamo vinto un oro con Greco ieri nel salto triplo maschile, abbiamo vinto un bronzo oggi nel salto triplo femminile. Hai visto? Con Simona Lamantia, che abbiamo al telefono qui con noi. Simona, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Sei ancora lì al palazzetto? Sei ancora al palazzetto? Sì, stiamo finendo di guardare le gare, c'è un po' di confusione. Ah, ho capito. Che gare stai guardando in questo momento? In questo momento i 60 femminili. Ah, com'è andata? Stanno partendo? No, hanno appena finito. Hanno appena finito, vabbè. E com'è andata? Ah, a me è bellissimo. Senti, tu venivi però da un titolo europeo indoor che avevi conquistato a Parigi 2 anni fa e hai conquistato, sì, una medaglia di bronzo. Diciamo, dalla felicità che sentiamo, un ottimo risultato. Assolutamente sì, perché quest'inverno ho avuto qualche problemino fisico e la mia partecipazione a questi campionati europei era un po' in discussione, però insieme al mio allenatore abbiamo cercato di lavorare su questo problema fisico che avevo e sono arrivata qui che avevo voglia di saltare e di difendere il mio titolo europeo. Insomma, comunque è andata molto bene, tu sei contenta di questo risultato? Sì, sono veramente contenta. Sì, senti, quasi non me l'aspettavo, ripeto, perché ho avuto una stagione invernale un po' problematica. Sì, senti, noi abbiamo parlato anche con Baldini l'altra settimana e ci diceva che c'è un clima un po' particolare nella squadra, ci senti? Ah, in questo momento no. Lo sospettavo, però hai risposto bene. Vediamo un po' se la smettono di far casino lì, cioè, basta, smettetela di fare... Cosa c'è da applaudire? Cosa stanno applaudendo, scusa? Non l'ho capito adesso. Ah, vabbè, comunque ora puoi parlare. Sì. No, dicevamo che già con Baldini abbiamo parlato del fatto che c'è un clima molto particolare all'interno della squadra, probabilmente anche perché sta andando molto bene, ci sono vittorie, ci sono dei risultati, siete tutti veramente giovani e state dando dei risultati totalmente inaspettati o no? Voi vi aspettavate questi risultati? La FIDAL è completamente cambiata, c'è un clima molto più unito, veramente il mischiarsi dei giovani nuovi entrati e dei, tra virgolette, vecchietti che erano già dentro la nazionale da qualche anno ha dato quest'unione molto forte tra noi. Però, questa è una cosa veramente bella, proprio lo spirito dello sport, ecco, dello stare insieme. Ma probabilmente la novità è che ci sono anche i risultati, nel senso che questo aspetto qua non era che prima non ci fosse, cioè che non c'erano dei giovani, probabilmente c'erano dei giovani, ma adesso arrivano molti risultati, tra l'altro in varie discipline, giusto? Assolutamente sì. Ecco, ricordiamo l'oro di Daniele Greco, l'abbiamo già detto ieri nel salto triplo, poi c'è stato anche il bronzo di Michael Tumi nei 60 piani, l'argento di Paolo Dalmolin nei 60 ostacoli, il bronzo di Veronica Borsi nei 60 ostacoli femminile e poi oggi il tuo bronzo nel triplo. Quello che questo meccanismo del clima che è cambiato velocemente, nel senso che diciamo, i vertici della federazione sono cambiati pochissimi mesi fa, un paio di mesi fa, e già si sente questa differenza? Sì, ma è stato proprio fin da subito si è sentito questo cambiamento, ma in modo netto e molto positivo. Ma come si concretizza un cambiamento di questo genere? Cioè nei rapporti? Sì, proprio nei rapporti interpersonali, sì. Anche con la direzione, con la dirigenza, insomma, in questo caso. Sì, sì. Ho capito. Senti, come festeggerai questo risultato? Ma sicuramente farò una settimana di stop, visto che le gare indoor sono terminate. Quindi sicuramente le trascorrerò con mio marito che lavora a Milano e quindi andrò a Milano. Ah, quindi vieni a trovarci, va bene, vieni pure qua in città. Noi ti aspettiamo ovviamente anche qui a Radio 24 intanto. Grazie Simona. Okay. Grazie, a presto, voi. Complimenti. Ciao. Ecco qua. Ciao. Buoni risultati, eh? Cioè, ma no, perché poi non ne parla nessuno, parlano tutti del calcio e Stramaccioni e Cassano, cioè nel Balotelli. Balotelli meno, si è fatto male alla tibia. Non ha ancora fatto niente, anche quando sta fermo devono parlare. Esatto, scusa, dovrebbe rientrare col Genoa probabilmente. Balotelli, sabato prossimo, poi mercoledì prossimo, della settimana prossima, il 12 c'è Barcellona-Milan, quindi il Milan giocherà in anticipo a Genova col Genoa e dovrebbe rientrare Balotelli che non ha giocato ieri sera. Anche tu parli di Balotelli. No, però effettivamente abbiamo avuto dei gran risultati, cioè una medaglia d'oro, le medaglie di bronzo ottenute da Simona Mantia, Michael Tumi e Veronica Borso, più l'argento di Dalmolin nei 60 ostacoli, comunque cioè, fanno vedere che questa atletica è viva e adesso inizia la stagione estiva e vedremo i risultati come andranno. A proposito dei risultati, io direi che per quelli che si sono messi in questo momento all'ascolto sarebbe utile dare i risultati di oggi per quanto riguarda il calcio, che hai lì sotto mano sicuramente. Esatto. Bologna-Cagliari 3-0 con i gol di Taider, Diamanti e Pasquato. Catania-Inter ha vinto l'Inter 3-2, i gol dell'Inter sono di Alvarez con la doppietta di Palacio, mentre per il Catania hanno segnato Berghessio e Marchese. Fiorentina-Chievo 2-1, Pasquale Larrondo per la Fiorentina e Kofi per il Chievo. L'Udinese ha vinto Pescara 1-0 grazie al solito Di Natale. Sampdoria-Parma 1-0 grazie al solito Icardi. E Atalanta ha vinto a Siena 2-0, mi verrebbe quasi da dire grazie al solito Bonaventura, perché malgrado non sia una punta, però quest'anno sta segnando molto Bonaventura. Ha segnato già 5 gol, mi pare. Sì, più o meno. Torino-Palermo, ricordiamolo, la tristezza alle 12:30 di oggi, 0-0. Che ci avvolse come miele, diceva qualcuno. Malgrado la giornata di sole era bellissima, cioè era la situazione perfetta. Per favore, esatto. Cioè, sei lì, no? Cioè, non fa neanche, non fa neanche freddo, l'erbetta, posso, il sole. Permettimi, posso ringraziare la D24? Sì, non eravamo in onda. Ecco qua, perché veramente quella partita lì poteva ammazzare tutti i bufali che c'erano in giro in questo passaggio. E invece, mentre siamo in onda, è terminata la finale di Coppa Italia di futsal femminile. Calcio a 5, sì, calcio a 5. Le sarde del Sinnai hanno sconfitto 3-2. Il Real Statte. Cioè, questa storia del futsal, guarda, futsal. Calcio a 5. Calcio a 5 si chiama calcio a 5 femminile, si chiama futsal. Sì. Quindi le Sinnai campionesse italiane. Io vorrei trovare un italiano, non ne chiedo tanti, ne basta uno. Sì. Un cittadino italiano che mi dica che il martedì o il giovedì sera va a giocare con gli amici a futsal e non a calcetto. In Alto Adige. Tutto è Fützel. È possibile. Ma il subbuteo, ci chiedono tra l'altro, è uno sport? Ho sentito che c'è un campionato italiano, non è proprio il subbuteo, attenzione, cioè in questo caso, cioè, no, c'è un campionato italiano di subbuteo? Sì, certo, c'è anche la Coppa dei Campioni di subbuteo. C'è la Coppa dei Campioni di subbuteo? La Coppa dei Campioni di subbuteo e il campionato mondiale di subbuteo, scherzi? Cioè, stai scherzando? No, ma usano delle cere. Quindi particolari. Non è il paese che è in rovina, è l'Europa che sta andando in rovina. Esatto, sì. Adesso sono senza Google per una ricerca. Però, ti garantiamo che c'è il campionato italiano. Sapete dirmi qualche cosa in proposito? Sì. No, cioè io no. No, allora, così? Diciamo che abbiamo pochi secondi perché fra un po' arriva la pubblicità. Meno male. Quindi non possiamo dilungarci tanto. Grazie però per la pubblicità. Esiste il campionato italiano di subbuteo, esiste la Coppa dei pubblicità. Campioni. No, stanotte, scherzo. Fra le 3 e le 4 su Radio 24, un'ora di speciale sul campionato italiano del subbuteo. Specialone subbuteo news, esatto. In questo caso che nel 2011 Saverio Bari di Reggio Emilia mi è diventato campione italiano. Sì, vedi. C'è sempre un secchione comunque nel giro. Quindi c'è stato un campionato italiano di subbuteo, sì. Che adesso ormai si è trasformato in razza, no? Sì. In questo caso, no. Come minimo da questo punto di vista. Bisognerebbe chiederlo a Valerio Bari. No, adesso non esageriamo. Dai e vai, non è solo calcio. Dammi solo un minuto, un solo fio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. Svegliati, svegliami, dai. Beh, adesso non esageriamo, cioè, insomma, bastava sono soltanto i questi. Sì, no, ma non è che sono i Pooh. No, sono i Pooh questi. Sì, ma non sono proprio i Pooh, capito? Ah, ok. Cioè, no. Quello che ci interessa. Allora, smettila con l'accendino. Sulle mani. Insieme è finito, abbiamo capito. Posso dirti una cosa? Sì, quando sì, tu hai detto un attimo cancellare, esatto. Per favore, quando Luca. Tu hai detto non sono i Pooh, mi hai ricordato di Pietro che ha detto mia moglie non è mia moglie, cioè, no ma non volevo dire questo, cioè, no. perché sì, sono i Pooh, ma non è che abbiamo messo i Pooh, esatto, capito, abbiamo sì, messo infatti. Il testo che voglio dire, no, che è il titolo del messaggio, è il messaggio, che cosa anche il mezzo un po' che, sì. Che conta in questo caso, no, però voglio dire sì, effettivamente sono i Pooh, sì, ma quello che ci interessa è l'attacco. Guarda, è così, si potrebbe anche fare in questa maniera qua, per semplificare proprio questa roba, no? Ecco, tu lì. Dammi solo un minuto. Basta, finito. Dammi solo un minuto. È quello che noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, un minuto dei vostri servizi, anzi un minuto di vostro servizio. Cioè, voi che andate, che siete competitivi, voi che andate a vedere le gare, voi che andate a partecipare nelle gare, voi che fate qualsiasi gara, voi che in qualche, anche quelle di cucina ci interessano, qualsiasi competizione, qualsiasi fase agonistica della vostra vita, per noi è, si può tradurre in un minuto, e potete farci un servizio dedicato soltanto a noi in questo caso. Ecco, ci sta anche un soffio di fiato, lo terrei come sottotitolo. Sì, perché poi ecco. Sì, ecco, perché no. Poi no, sì. Quando fai l'attività agonistica, sì, il fiato ti manca, sì. Quindi allora, c'è quel soffio di fiato, allora, capito? Digli al, cancellare, non c'è la webcam, sì. Qua è inutile, no. Che ti alzi, calzo tipo, le mani, no, sì, no, anche se ti alzi le, o arrenditi e questo, ma potresti alzare le mani, però non è il caso. Ci interessano i servizi anche sul dressage, sì, perché ci scrivono su Facebook, allora. Posso mandare anche i servizi sul dressage? Sì, su Fes, che sono tutti spiritosi ovviamente, perché adesso tutti pensano di essere tutti cabarettisti in Italia, adesso tutti vogliono fare tutte battute. Io sono molto preoccupato da una cosa. Beh, finché muove le mani va bene, ma qua ci sono i pozzetti antincendio. Se accende l'accendino sulla musica è la fine. Non è che puoi farmi ascoltare una. Intanto ci dicono che il Tortoreto Gregby ha vinto a Pescara. Un applauso. Un applauso. Grazie, bravo, un applauso. Bravo. Perché? Che cosa ha vinto? Scusa? Ha vinto la partita. E chi se ne frega? Cioè, una partita. No, però l'ascoltatore che in questo momento è lì collocato e ci può dare ovviamente un minuto, basta avere un cellulare, basta registrare. C'è scritto registrazione, metti lì dove c'è il microfonino. Scarichi l'app, metti lì e dai ovviamente quello che è accaduto in quella partita. Ci fai un servizietto di un minuto, meno di un minuto magari, in cui riassumi quello che è successo e ce lo mandi, ci mandi il file a daievai@radio24.it, lo registri col telefonino, poi ci mandi il file. Noi ovviamente manderemo la cosa migliore, comunque quella più attuale, la domenica, però durante la settimana possiamo andare a mettere in serie dentro la nostra pagina Face ovviamente tutti i nostri servizi. Nel frattempo vi ricordiamo che ci è arrivato un bel servizietto proprio per dammi solo un minuto, aspetta che mando la sigla, così poi facciamo partire subito. È la prima volta che lo facciamo, sono un po' emozionato, vai. Questa cosa qui, vai. Aspetta, vado, sì. Aspetta. Dammi solo un minuto, un solo fio fronte a una splendida cornice di pubblico è iniziata ieri la seconda giornata del campionato di Serie 2 di football americano. Si parte subito con lo scontro tra due delle favorite al titolo, Jaguari Torino e Demos Cernusco sul Naviglio, che vede i giornalieri torinesi vincere per 19-7. Secondo incontro della serata, il derby veneto vinto nettamente dagli Highlanders Venezia sui Saints Padova per 28-13. Nella giornata di oggi segnaliamo i due incontri più importanti, il derby capitolino tra le finaliste della passata stagione, Grizzly e Barbari, e il derby siciliano tra i neopromossi Cardinals Palermo e gli Elephants Catania, finalisti dello scorso campionato di Serie 1. Ieri si sono giocati anche alcuni incontri nel campionato di Formula 9, Aquile Ferrara Bobcats Parma 35-12, Predatori Golfo del Tiguglio Wolfpack La Spezia 21-0, Bluestone Gorla Minore Lario Hammer 53-12, Pirates Savona Bills Cavalier Maggiore 0-24. Infine ricordo il sito della Federazione Italiana di American Football www.fidaf.org, dove potete trovare tutti i risultati e le classifiche dei vari campionati in corso. Da Torino è tutto per Dai Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Io voglio già bene a Alessandro Lucca. Alessandro Lucca, ho già dimenticato il nome, figurati. Alessandro, sei tutti. Basta? Cancellala, cioè, siamo anche. Sembra che sei noi. Puoi farlo quando poi c'è il servizio, però. Ecco, ricordiamo. Grazie. Grazie, Alessandro Lucca. Ecco, non vuole. Cioè, va tutto bene, anche se non mettete la musica sottofondo. Ecco, la musichetta così, ecco. E anche questa cosa di avere un po' la voce bel tenebrosa, cioè, usare tutti i bassi, serve, ma non tanto. Cioè, non si capisce quasi un tubo di quello che dite, però sì, certo, voi fate un po' i fighi, però tecnicamente, però non è che serve, però grazie, dobbiamo dire grazie, ma dobbiamo subito abbandonare il nostro Alessandro Lucca, vabbè, ti vedo attento in questo caso, perché dobbiamo spostarci e dobbiamo andare allo sci di fondo, perché è successo anche qualcosa da quelle parti. Esatto, perché oggi si sono conclusi i campionati mondiali di sci nordico. Sci nordico in Val di Fiemme sono iniziati mercoledì e se ne sono conclusi oggi, e si sono conclusi con, diciamo, la gara principe di questi campionati mondiali, ossia la 50 km di fondo. C'erano anche degli atleti italiani. Uno di questi lo abbiamo al telefono qui con noi, Valerio Checchi, buonasera. Buonasera a tutti. 50 km di fondo, io non avrei neanche il fiato per dire buonasera, cioè, questo per dare un'idea, come siamo conciati noi. Ho risparmiato le forze apposta. Ah, ecco perché sei arrivato, quanto sei arrivato? 35. Ah, vabbè, allora va bene, hai risparmiato tanto di forze in questo caso. No, e diciamo, tu ti aspettavi di arrivare nei primi 40 o nei primi 30? Tanto per capirci il risultato, se ti soddisfa o meno. Ma, se sono sincero, nei primi 15. Ah, però bene. È uscita fuori una mattanza, praticamente. Perché? Che è successo? Che è successo? No, è una gara, forse credo sia stata la 50 più dura degli ultimi 10 anni, sia per le condizioni della neve, sia per il clima, sia per la pista. Era troppo caldo? Caldissimo, neve bagnata e una pista con un dislivello abbastanza assurdo. E diciamo, ho scelto la 50 sbagliata. Ah, ho capito. Ma tu adesso ti stai comportando un po' come Mazzari quando ce l'ha col campo di Napoli, quando perde? Ma oddio, no. No, però, perché Valerio scusa una cosa, ma anche gli altri c'avevano la stessa neve. Sì, è quello. Uno cerca sempre di aggrapparsi a qualche scusante, ma purtroppo, diciamo, la realtà è questa. Sì, era uguale per tutti le condizioni, certo. Ha fatto la differenza gli atleti un po' più in forma. Io non ero nel migliore delle condizioni fisiche, però ho tenuto duro, ho stretto i denti e alla fine sono arrivato all'arrivo. Purtroppo non potrò gioire come i primi classificati, però diciamo il morale, anche se un po' sotto le scarpe, sono sempre il motivo. No, sei depresso. No, Valerio, non fare così, No, Valerio, no, guarda che mi preoccupo, Comportati. Anche perché chiamo dal terzo piano di un albergo. No, allora, Valerio, no, l'inquilino del terzo piano, no, per favore, comportati bene perché non è il caso, Questo qua. Però devo dire, ho provato subito un po', tirato sul morale appena finito la gara, invece di andare dritto nel motorhome dell'Italia, come hanno fatto tanti atleti. Diciamo, sono rimasto un po' nel pubblico, sono passato un po' in mezzo alla folla, purtroppo ogni passaggio era una birra e... Ah, ecco. Ah, ho capito, quindi adesso hai recuperato un po', insomma, adesso sì, ho recuperato. Sì, sì. Diciamo che... Va bene. Sì.

Infatti c'è soci, tra l'altro volevo... Quindi scusa, tu ci autorizzi a dare questa, cioè a lanciare l'agenzia che dice Valerio Cecchi col cavolo che mi ritiro. Col cavolo che mi ritiro, e anche perché c'è un motivo in più, perché non so che magname, te la dico proprio così. Non so che magname tecnico, i fondisti sono così. Ci credo, parlando seriamente, in qualche occasione quest'anno, anche se non è stato a livello continuo grandi risultati, però in qualche occasione sono stato al vertice sia mondiale che a livello italiano, perciò qualche cartuccia ancora c'è, bisogna dosarla bene, perciò un anno olimpico. È da andare a casa adesso, ragionare su tutto, capire dove si è sbagliati. Sì, anche la valle, scegliere una valle migliore, magari. Infatti cambio quest'anno, proprio per una questione. Non sono Scaramanti, ma quest'anno cambio. Auronzo, vai ad Auronzo, che c'è lì il centro della forestale. Sì, anche quello è vero, però le caserme. Sì, però è meglio Pusteria, secondo me. Sì, poi c'è tempo per andare in caserma quando finisco. Va bene, senti Valerio, noi ti ringraziamo moltissimo. No, non farci scherzi, adesso non è che ti telefono un altro giornalista e dici no, mi ritiro. Questa è l'intervista ufficiale. Questa è ufficiale, noi ti lanciamo, stai attento. Sì, dichiaro apertamente il mio non ritiro. Ok, grazie Valerio, ciao, è grazie. Stato un piacere. Ciao, grazie per noi. A tutti gli ascoltatori, ciao, grazie. Dai e vai, non è solo calcio. Radio 24, non è solo calcio, volevo dire che abbiamo al telefono anche Romano, proprio perché tutto collegato. Romano però da Treviso, quindi esatto, capito. Quindi... Ciao Romano, pronto? Pronto? Ciao. Da dove telefoni? Dall'autostrada al momento. E questo ci riempie di gioia, ma stai andando verso? Sto andando verso Conegliano. Conegliano. Va bene, allora dici Romano. Allora, prima sentendovi parlare a proposito del futsal. Sì. Volevo dirvi che io insieme a un altro mio collega gestiamo insieme un locale appunto di calcio a 5. E ci sono più squadre che quando vengono, che siccome dicevate voglio sentire uno che dice vado a giocare a futsal, io non so, essendo tanti, ma nel campionato nostro amatoriale ci sono il South Futsal come squadra. Ma dai! E anche l'Anonim Futsal. Ma dai, ma che siete gente strana lì, però. Decisamente. Sì, ma perché cioè, lì filtrate delle grappe che soltanto voi ci avete per dire queste cose. Cioè. Diciamo la verità. Altro perché... che il cuore e la coda, vi portate a casa tutto lì, cioè, vabbè, la testa. La testa, la coda. Scusa, si tiene il cuore. Sono astemio, sai com'è, quindi faccio queste figuracce. Vabbè. Senti, guida piano, voglio dire, tu tifi per quale squadra? Io Udinese. Ah. Beh certo, che domande. Che domande inutili. Vabbè, torna dopo il successo a Pescara 1-0 gol di Natale. Sono contentissimo, finalmente anche ha sfondato l'incubo 150 di Natale. Sì, così basta, adesso l'hanno smaronato a 1000 questo 150, adesso siamo a posto. Dai Romano, vai piano, stai attento. Ciao, grazie, saluta tutti e lì, mi raccomando. Ciao. Ecco, vabbè, dobbiamo andare veloci perché Romano ovviamente in questo momento sta andando verso Conegliano, ma noi invece abbiamo al telefono Stefano Arisetti, giusto Stefano? Eccomi. Stefano, tu fai parte del Genoa Club? Sestri Ponente. Esatto. Dov'è che siete? Siamo a tre quarti d'ora dall'Olimpico. Ah, vabbè, ormai siete arrivati, quindi tranquillo. Ormai sì, c'è stato un po' di problemi, ma siamo arrivati. Che problemi avete avuto? Problemi con le alte sfere... Cioè? Locali, cioè? No, dai, tutto a posto. No, ok. Ah. No, siamo a posto. Abbiamo una scorta davanti e una dietro. Vi hanno fermato per controllare. Quello come tutte le trasferte, devi essere scortato, eccetera. Comunque, tutto ok. Ah, ecco, senti una cosa, Stefano, ma gli accordi li fate prima per quanto riguarda oppure arrivate al casello e vi fermano? Viene tutto preso prima col percorso da fare. e poi ti vengono a prendere di solito la barriera, o magari a volte ti fanno uscire, ecco, prima, dopo, e poi ti portano loro direttamente. Diciamolo ai nostri ascoltatori, per quelli che sono un po' distratti: non sono le fidanzate che vengono a prendervi, ma è la polizia, questo è il concetto. No, assolutamente sì. No, sarebbe meglio le amanti, però. Adesso non vorrei esagerare, che voglio dire, quindi vuol dire che le fidanzate le avete lasciate a casa, questo è brutto. Genoa, sì. Club, siete in quanti? Siamo una trentina. 30. Proporzione uomini-donne? Più donne, forse. Ah, davvero? Più donne. Stai scherzando? No, assolutamente. Ma metà, un 50-50. Beh, sì, questo è interessante, no? Me ne sembra. Ma voi sempre così, 50-50? Sempre. Abbiamo un bello zoccolo duro di uomini e di donne, noi. Ah, ho capito. Ma siete partiti a che ora stamattina? Siamo partiti a mezzogiorno e mezzo da Genova. Mezzogiorno e mezzo? Ah. Sì. Quanti autogrill vi siete fatti? Due soste, comode. Ah, comode. Ma poi abbiamo due grandi autisti. Sì. Ma sono sempre gli stessi? Sono sempre gli stessi gli autisti? Sì, più o meno sì, abbiamo quel gruppo di riferimento con le varie ditte, gestori di pullman, eccetera. Ma voi chiedete l'autista genovano? No, indifferente. Ah, indifferente. Se poi ci capita l'autista doriano, lo molliamo per la strada. Ah. E quindi, vabbè, però non è bello. Mi molla lui, magari. Lasciamo stare. Stefano, lasciamo stare. Non affrontiamo l'argomento che non vi conviene. No, infatti. Ecco, non è un argomento da toccare, tra l'altro, sull'autogrill, in questo caso. Senti, allora, tanto per capire, più o meno, ecco, tu hai di fronte a te la tua trentina, riesci più o meno a dirci l'età media di queste persone? Ma guarda, abbiamo gente, anche ragazzini di 13, 14, 15 anni, e gente un pochino più in là con gli anni, però... Più in là quanto? 50, 60 anche qualcuno. Vabbè, adesso ormai l'hanno abbassato, tutti abbassano l'età perché hanno paura di essere considerati vecchi. Infatti, dai, abbasso anch'io sui 50. Sui dai. 50, sui 50 in questo caso. E professioni invece? Cosa c'hai? Variegate, di tutto. Dammi una carrellata così veloce. C'è l'impiegato che ha la ditta per conto suo, che ha ufficio, un po' di tutto. Imprenditore? Chiaramente, un po' di tutto, sì, variegato. Variegato. Costo variegato. Della trasferta, di questa trasferta, quant'è? Sui 70 circa. Ma neanche. Più il biglietto o compreso? Finale. Ah, complessivamente, quindi viaggio più biglietto circa 70 euro. Più o meno. Ah, okay. Bello, pulito, mi sembra neanche una cifra, no? Dignitosa. Accessibile. Sì, sì. Senti, diciamo, l'accoglienza allo stadio come ve la immaginate? Perché lì voi sarete nella curva nord, nello spicchio in alto là in cima, giusto? Sì, come sempre quando si viene a Roma... Sì. Cioè, ecco, ma voi quando siete là non vedete niente, quindi come passate tutto il 90 minuti? Noi 90 minuti cantiamo per il Genoa, 90 minuti, sì. quello che ci gridano, ci gridano, noi lo gridiamo a loro. A prescindere. Non è il problema. Assolutamente. Senti, previsione di partenza da Roma? 11:30 partiremo. Sì, 11:30. Avete problemi con la tifoseria romana? No. Storicamente no. No. Poi vabbè, c'è stato un grande Pruzzo che è passato dal Genoa alla Roma, quindi nella storia giocatori così, no? Sì, diciamo che allegria. Quelli sono movimenti di mercato, molte volte rapporti fra tifosi certo. esulano dai movimenti di mercato delle varie società. Comunque con la Roma non ci sono problemi? Teoricamente no, ci saranno i soliti cori da parte loro verso di noi, come vabbè, normale. Questo è normale, partito, vabbè. Come quando vengono loro su. Ma sì, se no che cosa si va a fare? Ci annoia. È quello il tifo. Senti, ce ne sono peggiori trasferte. Allora, tu avrai probabilmente seguito la vicenda Stramaccioni-Cassano. Una delle richieste che Cassano ha sempre fatto era quella di tornare a Genova perché sua moglie è genovese. Una delle ipotesi che negli ultimi mesi è balenata, lo saprai benissimo, è anche questa ipotesi di Cassano al Genova. Voi come la vivreste? Tu come la vivresti? Sta già male. Guarda, ho mangiato un panino 2 ore fa. Se mi fai affrontare questo argomento è dura. E c'hai tutta una partita ancora da affrontare. Sinceramente, tecnicamente indiscutibile, ok? Tecnicamente, sì, però sì. Voi mi insegnate che il grande giocatore c'ha anche la testa. Certo. E questo la testa non ce l'ha. va bene. Quindi, ah, per quello guarda, al di là del suo trascorso passato, che oggettivamente tecnicamente niente da dire, per carità di Dio, il problema è che senza la testa strada ne fai poco. Guarda, parlano per lui, sei stato un signore, sei stato un signore. Ma comunque io ti aggiungo una cosa, tornasse io sarei contento. Tornasse da voi o tornasse da... No, da quelli della Sampdoria, della delegazione di Genova, perché poi ci divertiamo al derby. Infatti l'ultima volta dovevano farci falli di questo e quello, poi i risultati parlano, no? 2-2, c'è qualcuno che fece una tripletta e altri niente, gol. Quindi... Grazie Stefano, noi ti ringraziamo. Magari ci sentiamo sul tardi, questa sera, prima di partire, magari, se riusciamo. Grazie. Dai, ciao, grazie a voi. Buona partita. Auguri. Ciao. Vabbè. E, tra l'altro stasera, ricordiamo la partita. Esatto, con... Roma-Genoa alle 20:45, il posticipo. Roma-Genoa. O Sarracino, o Sarracino. Vabbè, cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, adesso diciamolo che quello che sta accadendo, cioè, no? Cioè, hanno trovato il fratello che il fratello che vende catenine, dello sceicco che vende delle catenine, cioè, capito? C'ha non so, una bancarella. Non è che potete legarvi ai vecchi schemi, no, cioè, vabbè, cioè, però adesso, guarda, poi io voglio fare una puntata monografica su di lui, cioè, vorrei parlare veramente sulle miroli, questa sera direttamente parleremo ovviamente del O Sarracino, Beluaglione, O Sarracino, tutte femmine ne fanno mura. Bamba, e si è anche offeso, tra l'altro, Sarracino. Beh, certo, cioè, lo scelgo, si è un po' incazzato. No. Vabbè, non c'è rispetto. Hai capito? È vero, cioè, poverino, lui, invece, cioè, la sua famiglia. Grande rispetto invece per Valeria Bernardi e Roberto Scaltriti, che ci hanno guidato al mixer anche oggi. E poi dopodiché ci abbiamo avuto anche come assistente al programma Giorgio De Luca, in redazione a Luca Cancellara, e qui ancora in onda Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. Vi danno appuntamento a domenica prossima. Grazie, a risentirci. Questa è Dai Vai Radio 24. E belle facce, e belle cuore. Salve, salve.